E per chi se la fosse persa, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Amici all'ascolto, un saluto da Franco D'Assisi e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Puntata che deve doverosamente trattare del Festival di Cannes, che è in corso di svolgimento ormai da più di qualche giorno e che ancora per tutta la prossima settimana sarà l'elemento catalizzante, insomma, di tutto il cinema mondiale. Proprio a Cannes ci rivolgeremo fra poco, sentendo il collega Boris Sollazzo, che si trova proprio sulla Croisette, per vedere quali sono i primi film che stanno per rimbalzare nelle sale italiane. Ma non sono questi gli unici contenuti, perché arrivano nei nostri cinema, anche nonostante la settimana di Cannes, alcuni film piuttosto interessanti. Oggi ci siamo soffermati sul cinema italiano indipendente, perché sta dando veramente sorprese e motivi di interesse. Allora, come sempre, noi cominciamo con il riepilogare i contenuti di questa puntata della Rosa Purpurea nei nostri titoli di testa. Colossal e Bizzarrie. Abbiamo visto per voi i primi film del Festival di Cannes, da Robin Hood, già nei cinema italiani, al nuovo Oliver Stone. Commuove e diverte, Non è ancora domani, film no budget che arriva in sala dopo aver fatto incetta di premi nei festival di tutto il mondo. Ne parliamo con la regista Tizza Covey. Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, crogiuolo di razze nella Roma di oggi. Un film per raccontare un'integrazione difficile. Con noi l'attrice Serra Ilmaz. La top 10 dei film più noiosi. Uno scienziato italiano e una ricerca americana per spiegare cosa piace e cosa non piace al nostro cervello davanti al grande schermo. Credo di avere molto da dirti su una storia, sulla tua storia. Tuo padre era un visionario. E cosa ha visto? Che i re hanno bisogno dei sudditi. Un'idea pericolosa. Ribellarsi e ribellarsi ancora, finché gli agnelli diverranno leoni. Mio padre è morto per questa. Che vuol dire? Vuol dire non arrendersi mai. E la voce tenebrosa che avete sentito è quella del doppiaggio italiano di Russell Crowe, il protagonista del Robin Hood che ha aperto il Festival di Cannes, che rimbalza subito nei nostri cinema. Robin Hood, che ha avuto già il volto di attori celeberrimi, da Errol Finn fino a arrivare ai giorni più recenti di Kevin Costner, passando per Sean Connery, ma come dimenticare la versione animata Disney, tanto per dirne una. Insomma, ogni tanto c'è stato anche Patrick Bergin, se ricordo, era un po' meno nobile come volto cinematografico, ma c'è stato anche lui. Ogni tanto Robin Hood ritorna. Forse c'era proprio il bisogno di mettere in moto un altro, un'altra versione di Robin Hood, una versione più vicina ai nostri tempi, un po' meno mitica ed eroica, un po' più brutta, sporca e cattiva. Ne chiediamo conferma al nostro Boris Sollazzo, che si trova a Cannes. Ciao Boris. Sono assolutamente d'accordo, perché questa è una cosa che succede sempre con gli eroi e i supereroi, insomma, visto che questa è anche, sono anche gli anni dei supereroi, cioè bisogna sporcarli per renderli più umani. E qui addirittura Ridley Scott fa una doppia operazione, non solo, come dici tu giustamente, lo fa diventare brutto, sporco e cattivo, ma addirittura ne racconta il prequel, cioè di quando è Robin Longstride, di come diventa Robin Hood, di come sostanzialmente è costretto a diventare fuorilegge. Quindi non racconta più, diciamo, la storiella che ruba i poveri, ruba i ricchi per dare ai poveri, ma racconta che contro un potere che si muove in maniera illegale c'è bisogno di un fuorilegge per riportare la giustizia nel proprio paese. E questo, insomma, è l'impostazione lodevole, la solita impostazione rivoluzionaria, oserei dire, di Ridley Scott, che faceva questo anche in Blade Runner, in Inside, in Thelma e Louise, l'individuo contro la collettività, contro il potere costituito. A mio parere poi non ci riesce del tutto, però. Ecco, velocemente, Boris, dicevamo, Robin Hood è l'unico film che di questa prima parte di Cannes arriva direttamente nelle sale italiane. Settimana prossima ce ne saranno un altro paio, però ci sono tanti film molto molto attesi. Io volevo chiederti una breve così analisi anche di quello che si pensa lì in Croisette del nuovo Wall Street, perché torna Gordon Gekko dopo 23 anni, vado più o meno a memoria, dal precedente, e quasi da uomo che era finito in carcere per le sue truffe finanziarie diventa quasi una sorta di maestro che salva Wall Street, insomma. C'è questa frase bellissima, no? Che dice Michael Douglas nel film: una volta l'avidità era considerata un bene, adesso è diventata addirittura una legge. Assolutamente, bravissimo. Memoria tra l'altro infallibile, caro Franco, perché sono proprio 23 anni, era il 1987, Oliver Stone lì rompeva l'uso propagandistico che il cinema faceva dell'economia e viceversa, per la prima volta si buttava contro anche lui il potere di Wall Street. Adesso le reazioni sono le più disparate, c'è chi è uscito mettendosi le mani nei capelli e chi come me è uscito molto divertito, molto appassionato, è un Oliver Stone che si diverte molto. Faccio un piccolo esempio: Josh Brolin, che è il vero cattivo, è rappresentante delle banche, non c'è più il broker cattivo, il broker avido, ma è l'avidità che è diventata legale attraverso le banche ad essere il cattivo, quindi è un cattivo iperuranico, addirittura oltre le corporation, insomma un Oliver Stone molto vicino a Michael Moore in questo senso. Qual è la cosa più divertente? Questa foto di Josh Brolin sullo sfondo che sta con Madoff, che racconta molto come l'inizio, per esempio, in cui lui, Gordon Gekko, tra l'altro Michael Douglas straordinario, istrione come pochi, viene preso dal carcere, cioè vede una limousine arrivare, ma quella limousine è per il rapper che sta uscendo di galera insieme a lui. Quindi il mondo è cambiato, ma Gordon Gekko riuscirà comunque a capirlo, perché insomma, essendo un diavolo, per quanto affascinante, in questo mondo di diavoli ci sguazza alla grande. Molto, certo, molto divertente, tante citazioni del suo precedente, si è divertito e secondo me ha divertito. Senti, quando in Italia? In Italia dovrebbe essere il 24 settembre, alcuni dicono novembre, chiaramente adesso è arrivato qui a maggio, sappiamo che in Italia l'estate non esiste. Certo, certo, quindi autunno prossimo, insomma, per intenderci. Dovrebbe essere autunno prossimo, perfetto, settembre che novembre, per grazie, l'apertura delle borse. Grazie, grazie a Boris Sollazzo, buon Festival di Cannes, ci risentiamo la settimana prossima. Grazie a te, Franco. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpura, alla seconda parte del nostro programma. Come abbiamo detto, dopo aver affrontato un colossal planetario come Robin Hood, ci soffermiamo su due film indipendenti italiani che trovano spazio nelle sale proprio in questo fine settimana e che ci piace segnalare perché sono due operazioni piuttosto interessanti. Noi cominciamo con un film che ha un titolo che sembra rubato a Lina Wertmüller dei tempi migliori: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Straordinario e anche molto evocativo. Perché Piazza Vittorio? Perché Piazza Vittorio è il crogiolo della parte più multietnica della capitale, di Roma. Allora noi sentiamo subito una clip, un'introduzione che ci restituisce un pochino anche il clima del film e poi ne parliamo con una delle attrici, forse uno dei nomi più importanti di questa pellicola, Serra Ilmaz. Ascensore! Ascensore! La vita di suo fratello non era delle più tranquille, ma Fedini, lei senza dubbio ne era al corrente. Potete chiedere alla mamma se per caso ha visto il mio amato cane Valentino? L'ho ammazzato io, perché era da Lazio. Ecuador, Filippini, tanto è uguale, siete tutti forestieri. Voi sporcate e io pulisco. Se volete lavorare qua, vi dovete far piacere quello che piace a noi. Avete rotto il cazzo. Tutti! L'Italia è l'Italia! L'Italia è l'Italia! Ecco, questa è l'atmosfera che si respira in questo singolare condominio di Piazza Vittorio, quartiere romano ottocentesco, dove italiani e stranieri vivono tra molte difficoltà e anche con momenti invece di grande solidarietà. Serra Ilmaz, un saluto e ben ritrovata alla Rosa Purpurea. Buonasera. Serra, ci piace averti qui intanto perché Serra Ilmaz è la straordinaria protagonista di molti film di Ferzan Özpetek ed è una, e non solo ovviamente, però insomma la conosciamo e il grande pubblico la conosce soprattutto per quei film. La troviamo in questo lavoro di Isotta Toso, dove tra l'altro ci sono anche altri attori di una grande notorietà, pensiamo a Kasia Smutniak, a Daniele Liotti, insomma un cast importante. Serra, però ci piace averti qui perché tu rappresenti forse proprio quest'anima un po' straniera, un po' italiana che popola quel quartiere. Allora, sono più le intolleranze o sono più le solidarietà che esprime Piazza Vittorio? C'è un po' di tutto, credo, perché l'uno non esiste senza l'altro, purtroppo, al mondo. E quindi, ma penso che c'è anche solidarietà, meno male. Senti, raccontaci un po' cosa c'è dietro questo titolo, no? Questo scontro di civiltà per un ascensore in Piazza Vittorio. Allora, ogni tanto i conflitti possono essere concentrati su un oggetto che diventa un po' il simbolo dei conflitti in corso, e devo dire che nel nostro caso l'ascensore diventa un po' l'oggetto che concentra tutto il conflitto, perché c'è la portiera del palazzo che non trova giusto che, ad esempio, la donna delle pulizie di una delle signore italiane che vive nel condominio, che è extracomunitaria, usi l'ascensore, quindi come se l'accesso all'ascensore fosse anche, diciamo, un segno di classe sociale, e quindi c'è tutto un conflitto attraverso questo ascensore, che diventa un po' l'oggetto, diciamo, chiave, ma in realtà il conflitto è d'altrove, evidentemente. Io difenderò la civiltà in questo palazzo finché sarò vivo. L'ascensore è di tutti, caro mio. Io sono stata. È perché mi pisciava sempre nell'ascensore. Me lo riempiva di mozzicone di sigarette. E tu non ti metti in mezzo, fatti li cazzi tua. Hai capito? Ti devi fare li cazzi tua. Manfredini ti ricattava e tu l'hai fatto secco. Ecco, Serra, volevo chiederti un'altra cosa. Per quanto concerne questo film, che tipo di impatto pensi possa avere? Cioè, il problema di questi film, ovviamente, i film indipendenti, piccole produzioni, è quello della distribuzione, quello di arrivare nella maniera più capillare possibile a essere presenti, almeno con una copia, nelle grandi città, per esempio, dove questo tipo di problemi viene sentito maggiormente. Se dovessi consigliare proprio al pubblico di andarlo a vedere, con quali argomenti cercheresti di convincerlo? Allora, io cercherei di convincerlo dicendo che questo è un film divertente, è un film che c'ha un suo suspense, perché è anche un giallo, è un film in cui c'è un cast strepitoso, e anche perché credo che sia importante sostenere il cinema, che va visto nelle sale dei cinema. Perfetto, allora con questo augurio, diciamo così, con questo auspicio di Serra Yılmaz, noi salutiamo l'attrice ospite qua della Rosa Purpurea, e ricordiamo la presenza in sala, nei cinema italiani, di Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Grazie, Serra. Grazie. E allora siamo al DVD Game, si apre la prima finestra sul nostro gioco che ogni settimana vi fa vincere, almeno a qualcuno di voi, non tantissimi purtroppo, ma insomma è sempre molto bello vedere con quale grande spontaneità e reattività siete pronti a rispondere al nostro quiz. Vi fa vincere, dicevo, bellissimi film in DVD e Blu-ray, soprattutto a patto che li indoviniate. E allora noi cominciamo con la prima traccia misteriosa del film di oggi. Ah, basta mandare la stagista, è carina ed è super vivace. Sono le uniche cose che contano in una meteorologa televisiva. Stagista, ti piacerebbe leggere le previsioni da uno sputo di isolotto in mezzo all'oceano per fare un favore a mio cugino? E allora avete capito che si tratta qua di meteo, insomma, di qualcosa che ha a che fare con i fattori atmosferici, diciamola così. Se avete indovinato di che film si tratta, includendo ovviamente sempre il vostro indirizzo di posta ordinaria per eventualmente ricevere a casa il Blu-ray in questo caso, scrivete appunto il titolo del film alla Rosa Purpura @radio24.it. Ciao, oh, piccola. Ma sei qui da solo? Ti spingo un po', dai. Mamma! Dove? Vediamo se è qua. Come ti chiami? Aya. Aya? Vieni, dammi la mano, Aya. È di là? La mamma dov'è? Dov'è la mamma? Insomma, avete capito che si cerca una mamma. Questa era una clip del film Non è ancora domani, La pivellina. Questo è il titolo completo di questo film che arriva nei cinema italiani. Un altro bell'esempio di cinema indipendente capace di raccontare con un budget risicatissimo una bellissima storia di grande tensione emotiva, anche di ottimo divertimento, di momenti di spensieratezza, partendo da un microcosmo Cosmo, che è quello della periferia romana in questo caso. Prima abbiamo sentito con Piazza Vittorio il centro multietnico, qui siamo nella periferia, nei casermoni, dove appunto Patrizia, la protagonista, una donna di mezza età che vive in una sorta di accampamento, insomma, come nomade, assolutamente italiana, che appunto è andata per cercare un cane e ha trovato una bambina in un'altalena, questa piccola che avete sentito che è un portento all'interno del film, una bambina sola, apparentemente senza la mamma che sta cercando, e con un biglietto in tasca appunto della madre, un messaggio che promette che la madre tornerà un giorno. E questo è un po' l'antefatto del film, il momento che abbiamo voluto raccontarvi con questa clip. È in collegamento con noi la regista, una dei due registi di questo film, che è firmato Rainer Frimmel, e Tizza Covi, che è con noi. Ciao Tizza, grazie di aver accettato il nostro invito qui alla Rosa Purpure. Ciao, grazie per l'invito, molto piacere. Allora, Tizza, io ho visto il film nell'autunno scorso a Mantova, durante le giornate del cinema d'essai, ed è stato un colpo di fulmine, questo lo dico così apertamente, così il nostro pubblico sa come la penso, ne farà ovviamente l'uso che vuole, ma è un film che, partendo da un budget che mi dirai, ma penso non superi qualche decina di migliaia di euro tutto sommato, ha veramente raccontato con una delicatezza e una sensibilità uniche una storia bellissima, che ha anche un grosso valore universale, cioè quello di cosa rappresenta un affetto, un amore che nasce a prescindere da quelle che sono le radici, tutto sommato. Guarda, il film, siccome è stato girato anche su film, su Super 16, ha costato 100.000 euro, allora un po' di più di quello che pensavi, però proprio anche per il fatto che abbiamo girato su pellicola, che è una cosa costosa, che per noi era molto importante, siccome non utilizziamo luce, utilizziamo solo luce naturale, e la pellicola è molto sensibile con questa situazione, va molto bene. Eh sì, è un film che parla anche sull'amore per il prossimo praticamente, parla anche su una realtà di circensi spesso ignorata nella borgata di Roma, sì, parla di, avevamo proprio voglia di raccontare una realtà che noi abbiamo vissuto. Questo film è nato da amicizia che noi avevamo con i protagonisti, e proprio la sceneggiatura di questo film è nata per i nostri protagonisti. Ecco, Tizza, come ti è venuta in mente però questa idea, proprio questa vicenda, questa storia, da cosa sei stata ispirata? Sono stata qui a Vienna una volta con i miei bambini in un parco giochi, dove ha cominciato a piovere, sono restata da sola con i miei bambini e un altro bambino, che non c'era la mamma. Allora io aspettavo sotto la pioggia, io aspettavo forse 5 minuti, forse 10, ma tutto quello che mi è andato in mente, cosa faccio adesso, la porto alla polizia, cosa faccio? E era proprio questa storia, la mamma nella mia storia è rivenuta, prende la bambina, si vede che è andata al bagno, non so dove, non ha detto niente. Ma in questi 10 minuti si è passato molto nella mia mente. Quando sono ritornata da Rainer e le ho raccontato questo, abbiamo pensato di poterla adoperare per la nostra storia. Grazie a Tizza Covi, regista di Non è ancora domani, La Pivellina, cercatelo nelle vostre sale, nelle vostre città, perché ne vale davvero la pena. Ciao Tizza, grazie di essere stata con noi. Ti ringrazio tanto a te, mi ha fatto molto piacere parlarti. A Tizza Covi ci siamo dimenticati di dire, ma avrete capito anche dall'accento che Tizza vive a Vienna, per cui l'abbiamo raggiunta nella capitale austriaca. Ci è piaciuto questa settimana aprire una parentesi su un esperimento davvero molto particolare, l'avete sentito anche nei titoli di testa. Quali film piacciono di più e quali piacciono di meno, non tanto a noi come spettatori, quanto al nostro cervello mentre siamo davanti al grande schermo? È il senso di una ricerca che è stata fatta, e di un articolo, ricerca che è diventata un articolo firmato da Riccardo Lattanzi, che è in collegamento con noi da New York e che saluto. Ciao Riccardo. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora, una ricerca, dicevo, che è diventato un articolo per il mensile Wired, che è sempre molto attento, insomma, questa alla penetrazione della scienza dentro la nostra vita quotidiana e dentro le nostre emozioni in questo caso. Com'è stato possibile misurare l'emotività, le reazioni emotive del pubblico davanti a un film? È una tecnica che è stata sviluppata in parte all'università qui a New York, in parte un'azienda californiana che utilizza in pratica lo stesso apparecchiatura utilizzata negli ospedali per la risonanza magnetica. Quindi c'è una persona che è distesa all'interno del macchinario come per un normale esame diagnostico, e poi la differenza è che con un proiettore e un sistema di specchi vengono visualizzate delle sequenze video, ad esempio il trailer dei film, direttamente davanti agli occhi del soggetto. L'audio poi invece arriva con delle normali cuffie. e durante la visione il macchinario acquisisce delle immagini anatomiche del cervello precisamente uguali a quelle usate per scopo diagnostico e contemporaneamente registra invece l'attività cerebrale con una tecnica chiamata risonanza magnetica funzionale. Le due informazioni poi vengono sovrapposte al computer e alla fine si ottiene un filmato sincronizzato con il trailer cinematografico che mostra istante dopo istante quali zone del cervello si attivano o disattivano in risposta allo stimolo audiovisivo ricevuto dalla persona che guarda il trailer. E utilizzando questa tecnica, un'azienda californiana che si chiama MindSign Neuromarketing ha analizzato una serie di trailer di film recenti oppure di ispezioni di pubblicità e ha registrato con diversi soggetti per diversi gruppi demografici qual è stata la risposta cerebrale per mostrare un po' come le varie tecniche cinematografiche, come l'utilizzo del sonoro e dell'audio poi crea stimoli differenti in persone diverse e come questo un po' possa essere utilizzato dall'industria cinematografica per migliorare il prodotto. Ecco, hai parlato di neuromarketing, devo dire che mi sono venuti i brividi, ma è divertente anche questa cosa. Ovviamente, come tutte le ricerche, l'esperimento è stato fatto su una serie di film abbastanza recenti, diciamo delle ultime stagioni, se non proprio dell'ultimissima stagione, è venuta fuori, anzi Wired si è divertita a stilare una classifica, che ovviamente lascia assolutamente il tempo che prova, ma è proprio la classifica delle reazioni, delle emotività, dell'eccitazione che questi film hanno creato nelle persone che si sono sottoposte a questo esperimento. Quello più eccitante, tosto, reattivo, è risultato essere Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Il mio nome è Rain, tenente Aldo Rain, e mi servono 8 soldati. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili, per fare una cosa e una sola. Uccidere i nazisti. Sì, signore! Bastardi senza gloria, Quentin Tarantino. Riccardo, cosa lo ha portato a essere il film più, fra virgolette, ipercinetico sotto il profilo neurologico tra quelli presi in esame? Ricordiamo che l'esperimento è basato sul trailer e il trailer di Bastardi senza gloria è abbastanza vincente, cioè Brad Pitt che spiega ai soldati la missione e il suo discorso che dura per tutto il trailer, che è però intervallato con altre sequenze del film, con sparatorie e scene di azione che vengono messe lì, e ogni tanto c'è un colpo di sonoro, un boom, e appaiono delle scritte che uno è indotto, forzato a leggere. Quindi con la musica di sottofondo poi che crea della suspense nel corso di tutto il trailer, si capisce un po' che crea un effetto globale nel cervello e tende a mantenere l'attenzione dello spettatore. Se uno guarda poi, questi sono disponibili anche su YouTube, questi video con la risposta cerebrale, se uno guarda la mappa si vede che la risposta del cervello è altissima in varie zone, c'è la corteccia visiva che è posteriore, è sempre attiva, come pure poi la regione preposta a mantenere l'attenzione, quella ad analizzare le informazioni. E poi c'è una corrispondenza, se uno guarda il trailer sincronizzato con l'attività cerebrale, che fa corrispondere quei boom di sonoro quando cambia l'immagine, a una reazione, a un picco nell'attività cerebrale che corrisponde all'audio, alla processazione delle informazioni audio. Ovviamente dove c'è un primo c'è anche un ultimo. Noi ci siamo divertiti a scherzare ovviamente più su questo, perché sotto il profilo giornalistico è più divertente stilare una classifica dei film che fanno dormire di più davanti al grande schermo. E questo ci serve per dire proprio che ovviamente questo esperimento, un po' perché è fatto sul trailer e non su tutto il film, un po' perché registra delle semplici reazioni neurologiche e non una reazione veramente emotiva, lascia il tempo che trova ovviamente sotto il profilo artistico. Se pensiamo che l'ultimo in classifica dei 10 presi in esame è quello che secondo me è un totale capolavoro, ovvero Up della Disney. Delle orme. Il beccacino. Vieni, beccacino. Vieni fuori, beccacino. Ah, ti ho visto. Non aver paura, beccacino. Sono un esploratore della natura, quindi sono un amico di tutta la natura. Ecco Riccardo, è interessante che il trailer di Up invece ha convinto sotto il profilo dell'attività visiva, ha convinto i cervelli, potremmo dire, poco sotto quello dell'attività uditiva. Sì, sì, se uno guarda poi sempre al canale YouTube dell'azienda, lo spezzone dei trailer che hanno utilizzato è abbastanza privo di picchi emotivi. Infatti si vede un po', è più che altro grafico, cioè la casa che viene sollevata con i palloncini, i vari personaggi, in sostanza è un cartone animato e l'audio è abbastanza piatto, senza grossi cambi di volume o suoni forti, quindi uno c'è da aspettarselo che quel tipo di trailer, di filmato porti a delle simili attività cerebrali. Poi Ricordiamo anche che è un cartone animato e il soggetto con cui è stata stilata la classifica è passato su un esperimento di un ragazzo di 26 anni che non è che sia saltato poi sulla sedia dall'emozione a vedere queste cose. Forse se avessero fatto l'esperimento con un bambino avrebbe prodotto risultati diversi. Quindi, insomma, come dicevi tu, non è che questo esperimento poi distrugga Up dal punto di vista artistico, anzi, anche io condivido la tua opinione, sia un bel film e non è affatto noioso. Assolutamente. Senti Riccardo, non abbiamo detto perché sei in New York, tu sei lì e mica perché sei in vacanza, ma perché insegni da quelle parti, no? Sì, io sono assistant professor di radiologia alla scuola medica della New York University, mi occupo principalmente di risonanza magnetica per immagini ad alta intensità di campo, quindi le nuove tecnologie per la risonanza magnetica del futuro. Risonanza magnetica per cinefili, potremmo chiamarla in questo caso, e questa era tutta una scusa per dire che se vi addormentate al cinema non è colpa vostra, ma è colpa del vostro cervello che non è reattivo rispetto alle immagini che vede. Grazie Riccardo Lattanzi. Prego, ciao. E allora, dopo aver parlato di cinema e di cervello, il nostro, di fronte ai film, andiamo al secondo clip, la seconda clip del film misterioso di questa settimana, quindi vediamo quanto siete reattivi voi nell'indovinare di che film si tratta. Quando l'hai lanciato nella stratosfera, hai calcolato che avrebbe indotto un cambio molecolare del vapore dallo strato cumulonimbo. Hai fatto un'osservazione che non esiterei a definire molto acuta. Voglio dire, è probabile che le nuvole abbiano l'acqua dentro. Che suppongo è il motivo per cui l'hai lanciato là sopra. La rosa purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, qui c'è in palio il Blu-ray di questo film, più tardi l'ultima possibilità. Ed eccoci alla nostra rubrica, l'abituale rubrica Trailer USA, che come sempre con la nostra Micaela Bellisario ci porta dentro le novità del cinema in America, quando stanno ancora per uscire in America e ben prima che poi le si ritrovi qui alla Rosa Purpurea come film disponibili in Italia. Questa settimana torniamo a parlare di Abruzzo, perché si è discusso anche a Cannes di Dracula, di Sabina Guzzanti, ma l'Abruzzo fa da sfondo alle location del nuovo film con George Clooney, che si intitola The American, che noi vedremo in autunno inoltrato. L'uscita è prevista esattamente per il 1 ottobre in Italia. The American è un thriller firmato dalla regista Anthony Corbin, già regista dei Control e di molti videoclip, tra cui quelli degli U2 e dei Depeche Mode, girato appunto in parte in Abruzzo e che vede nel cast come protagonista femminile accanto a George Clooney la nostra Violante Placido. Ma lasciamo la linea e il racconto alla nostra Micaela Bellisario. Sì, eccomi qua. Ciao Franco. Citavi Violante Placido. Allora, ti dico subito un gossip. Devi sapere che tra George Clooney e Violante Placido ci sono delle scene molto molto hot. Nel film scorre del tenero molto erotico tra loro e quindi per la bella Elisabetta Canalis si suppone che sarà veramente dura rivedere certe scene. In effetti al tempo delle riprese nel settembre del 2009 in Abruzzo c'era spesso anche l'ex velina, ma lasciamo il gossip. Dunque, The American è la storia di Jack, interpretato da George Clooney, un killer professionista esperto nella fabbricazione delle armi che dopo una missione fallimentare in Svezia decide di nascondersi e di cambiare vita e si ritira in un paesino abruzzese dove tenta di iniziare una vita normale. In questo passo del trailer lui cerca di far perdere le proprie tracce avvertendo però al telefono il suo committente Larry della decisione. Hello? It's Jack. I want out. Consider it your last job. You don't even have to pull the trigger. You're in America. I see. A working vacation. Dunque, in questo paesino abruzzese Jack, come dicevo prima, cerca di iniziare una vita normale e di allacciare dei contatti umani, stringe una forte amicizia con il prete locale e soprattutto si innamora di Clara, ovvero di Violante Placido. Ma, come succede, potremmo dire, in tutti i film, il passato bussa sempre, prima o poi, e quindi c'è il classico passo falso che potrebbe mettere in pericolo la vita di Jack. Ovviamente non possiamo svelarvi il finale perché è un thriller. In questo passo del trailer vi facciamo sentire invece i sospiri della sua giovane amante Clara. You're a good man, but you have a secret. Take me with you. A man can be rich if he has God in his heart. Ebbene, abbiamo parlato di festival con Cane in apertura di questo programma. Questo film di American potrebbe essere presente alla Mostra del Cinema di Venezia, data la presenza di Clooney e anche dell'Abruzzo come scenario del film. Grazie Micaela, a risentirci. Ciao Franco, alla prossima settimana. È la quarta parte della Rosa Purpura che come sempre spalanca le porte del grande cinema a casa vostra per quanto concerne la TV oppure l'on video. Abbiamo un'altra bella proposta questa settimana dagli amici di Film TV, perché c'è un film di straordinario valore che arriva sul piccolo schermo giovedì 20 maggio, ma soprattutto su un canale tutto nuovo, o insomma rinnovato, che si chiama Rai Movie e che è frutto di questo famoso switch over che poi precede lo switch off, ci stiamo abituando anche a questi termini, del digitale terrestre, ma un canale assolutamente in chiaro che possono vedere tutti coloro che hanno appunto il digitale terrestre. Sentiamo il consiglio da Claudio Bartolini. Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 24 dalla redazione di Film TV. Il film che abbiamo scelto oggi da segnalare è Le vite degli altri, che andrà in onda giovedì 20 maggio alle ore 21 su Rai Movie. E a proposito di Rai Movie c'è da fare una premessa innanzitutto, ovvero questo è un canale nuovo che va a sostituire RaiSat Cinema nell'ambito del palinsesto dei digitali terrestri. Parliamo di digitali terrestri free, digitali quindi che nelle regioni dove è già avvenuto lo switch off sono già attualmente visibili. Dunque, Le vite degli altri è un film che è stato giustamente, a nostro parere, premiato in ogni dove, quindi ha preso Oscar, l'Oscar americano, quello europeo, tedesco. Si tratta di una vicenda politica legata agli avvenimenti della DDR, ovvero della famigerata Stasi, la polizia tedesca che, quando esisteva ancora il muro di Berlino, controllava e intercettava tutto quello che era che erano i movimenti sovversivi dell'opposizione. Parliamo quindi di Germania Est, di vicende politiche che, come detto, si intrecciano con vicende umane, ovvero con la vicenda di questo militante della Stasi, dedito alle intercettazioni e serio professionista nel suo mestiere, che progressivamente perde il controllo della situazione, entra in contatto con il lato umano dell'estremismo politico e quindi viene piegato alla ragione. Ecco, quindi il trionfo dei sentimenti sulla politica, ma non solo, una regia solida, una sceneggiatura che non fa una grinza, come si suol dire, e quindi un film assolutamente da vedere, da gustare e, se vi è possibile, anche da videoregistrare, perché è appunto un titolo cult, quindi un titolo da collezione. Per questa settimana è tutto, un saluto e a risentirci a settimana prossima dalla redazione di Film TV. Grazie Claudio Bartolini. Allora, Le vite degli altri, giovedì 20 maggio, ore 21 su Rai Movie. Andiamo a sentire la terza e ultima traccia misteriosa del Blu-ray Game di oggi. Tu devi solo far piovere il cibo, tre pasti al giorno, tutti i giorni per l'immediato futuro. E fra 30 giorni riapriamo la grande quest'isola come meta imperdibile per le grandi crociere. E tutta la gente in tutto il mondo finirà per amare la tua invenzione. Lo pensa davvero? Io lo so davvero. Beh, insomma, abbiamo detto quasi tutto ormai, avevamo parlato di fenomeni atmosferici e stavolta avete sentito che si parlava di cibo. Insomma, vedete un po' che cosa piove su questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. Noi invece facciamo il consueto balzo indietro di 7 giorni, perché avevamo giocato con un titolo che avevamo cercato di rendere meno riconoscibile possibile, ma non è stato facile, ed era questo titolo qua. Quindi hai pensato di venire quassù, nell'ambiente più ostile all'uomo, senza nessuna preparazione, e capire come andava? Ma che ti ha detto il cervello? O rilassati e cerca di svuotare la mente. Non è difficile per te. Va a farti fottere il più presto possibile. Iniziare, Link. E allora, era Avatar, lo avete indovinato in tanti, i più veloci, i più reattivi, già dalla prima clip che era abbastanza imperscrutabile sono stati Franco Cipriani di Padova e Nicoletta Pedemonte di Genova, che riceveranno questo film edito dalla Fox, che tra l'altro ha già fatto registrare il record assoluto, almeno queste sono le notizie che sono state diramate per quanto riguarda la distribuzione on video nei suoi primi giorni di circolazione nelle videoteche. Beh, del resto era stato così il film dei record anche al cinema, anche l'on video sta seguendo la stessa traccia. Per quanto concerne invece però l'analisi dei contenuti e della diciamo così della confezione di questo attesissimo prodotto on video, noi abbiamo già in collegamento il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio, parlaci di Avatar. Ciao Franco, sì, allora per Avatar al momento è prevista una unica edizione DVD più Blu-ray nella stessa confezione, il DVD è di ottima qualità, il Blu-ray da riferimento almeno per la parte video, per l'audio il Blu-ray offre questo DTS, la traccia audio DTS che è notevole, c'è maggiore spunto per l'originale inglese ad alta risoluzione, non sono previsti contenuti extra al momento, ma preannuncio già che a settembre ci sarà un'edizione 4 dischi DVD oppure Blu-ray. Beh, chiaramente quando c'è diciamo così un piatto così succulento si cerca anche di sfruttarlo, magari non sempre facendo la felicità del pubblico, degli amanti dell'on video, perché effettivamente poi bisogna magari rimettere mano al portafoglio, ma insomma scegliete voi se godervi subito lo spettacolo di Avatar anche in casa sul vostro maxi schermo, magari aspettare per edizioni un po' più corpulente sotto il profilo dei contenuti speciali. Noi facciamo invece un bel balzo indietro nel tempo con un film assolutamente mitico nella storia dell'horror che sta per ritornare a sua volta perché è pronto un remake. Stiamo parlando di Nightmare, l'arrivo di Freddy Krueger, del mostro con le dita di lama. Sentiamo la clip. Era buio, ma sono sicuro che c'era qualcuno sotto le coperte con lei. Come poteva esserci qualcuno sotto le coperte mentre voi eravate a letto insieme? Che cavolo ne so io. Non mi interessa che tu ci creda se non vuoi. Com'era fatto? Sei riuscito a vederlo? No. E allora come fai a sapere che c'era qualcuno? Perché l'ha fatta a pezzi sotto i miei occhi. E non sei riuscito a vederlo? Si nascondeva quel porco. Vedevo solo le ferite aprirsi. Si chiama Freddy Krueger, l'uomo nero che appare a un gruppo di giovani trasformando i loro sogni in incubi così reali che le ferite si ripercuotono nella realtà. Assolto per crimini di pedofilia, viene catturato e bruciato vivo da un gruppo di cittadini decisi a farsi giustizia, e ora lui è tornato. È in arrivo il Blu-ray da parte di Warner Home Video del mitico film di Wes Craven del 1984, capostipite di una serie lunga 7 sequel, risultato nel complesso buono per le immagini, positivo considerando il film a basso budget e i 25 anni sulle spalle, sufficiente l'audio monofonico in italiano, tutt'altra cosa, la traccia 8 canali ad alta risoluzione in inglese. Tra gli extra segnalo la visione immagine nell'immagine con approfondimenti, doppio commento al film in compagnia di Wes Craven assieme a parte di cast e truppe e vari finali alternativi. E adesso un film che è passato alla Mostra del Cinema di Venezia nello scorso mese di settembre, un film che ha ottenuto grandi consensi, tra l'altro segna l'esordio cinematografico per un grande nome della moda che è Tom Ford. Stiamo parlando di A Single Man, storia di un professore omosessuale stanco della sua vita, magistralmente interpretato da Colin Firth. E parliamo un po' della paura. La paura, dopotutto, è il nostro vero nemico. La paura sta invadendo il nostro mondo. La paura viene usata per manipolare la nostra società. È così che i politici spacciano la loro politica. E Madison Avenue ci vende cose che non ci servono. Pensateci su. La paura di essere attaccati. La paura che ci siano comunisti in agguato dietro ogni angolo. La paura che un piccolo paese dei Caraibi che non condivide il nostro stile di vita costituisca una minaccia. La paura che la cultura nera possa conquistare il mondo. La paura dei fianchi di Elvis Presley. Forse di quello dovremmo avere paura. La paura che l'alito cattivo possa rovinarci le amicizie. La paura di invecchiare, di essere soli. Siamo nel 62, in piena guerra fredda e con l'incombente minaccia nucleare seguiamo l'ultimo giorno di vita di George, professore di lettere che vive e lavora in California. Ha da poco perso il suo compagno Jim e ha deciso di suicidarsi e proprio per questo si appresta a trascorrere una giornata intensa e viva come non mai. Tom Ford, stilista di successo, esordisce alla regia con un lavoro intenso, introspettivo e raffinato, adattamento per il grande schermo del romanzo Un uomo solo di Christopher Isherwood. Con 2 mesi di anticipo sull'uscita a un video americana arriva in Italia da Cecchigori il DVD, ma soprattutto il Blu-ray, grazie al quale rivivere l'emozione del film. La qualità per entrambi comunque è eccellente, soprattutto per il Blu-ray, presente tra l'altro una doppia traccia DTS ad alta risoluzione sia italiano che in inglese. Come extra, 15 minuti di interventi da parte del regista del cast e il trailer. Grazie allora Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. A presto, risentirci. E siamo in chiusura, è finita la puntata di questa settimana della Rosa Purpurea. Grazie per averci ascoltato, divertitevi al cinema e noi ci risentiamo la prossima settimana, quando cercheremo anche di capire come sta per andare a finire il Festival di Cannes. Un saluto da Franco D'Assisi.